L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale per raccontarvi altre facce dell'Europa. Lo sapete, Radio 24 segue quotidianamente, minuto per minuto, quella che è l'attualità europea. Noi cerchiamo il sabato mattina di così portare altri contributi o altri punti di vista, però poi a volte l'attualità entra drammaticamente, come in questo caso 91 morti in Norvegia, a Oslo, quindi l'Europa che si è svegliata con questa drammatica notizia. Già ieri sera c'era stato, insomma, tutte le notizie, però veramente i numeri sono altissimi, quindi anche noi vogliamo dare spazio a quello che è accaduto in Norvegia. 349-238-6666 per i vostri sms, in Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, se volete seguirci in diretta con tutti i nostri link. Vi ricordiamo, è un programma in collaborazione con Euronet, e vi segnalo anche il sito di Euronet, euronet.eu/ita, per le pagine in italiano. Perché? Perché un paio di settimane fa abbiamo fatto approfondite riflessioni sul trattato di Schengen, che cos'è, come funziona, visto che in queste ore se ne sta parlando tanto, quindi lì potete avere tutte le delucidazioni del caso. Ma partiamo appunto dalla Norvegia, andiamo ad Oslo e lo facciamo con le parole del presidente norvegese. I dag er Norge rammet av to sjokkerende, blodige og feige angrep. Vi vet ikke hvem som angrep oss. Mye er fortsatt usikkert. Men vi vet at mange er døde. È il premio Stoltenberg, è il premier Stoltenberg che parla, appunto, dice una tragedia nazionale, questa tragedia di cui si stanno un po' delimitando, insomma, i contorni, si sta capendo qualcosa di più. Ma per capire come si è svegliata la città, quelli che sono gli umori di un popolo, ci colleghiamo con Oslo e lo facciamo con Massimo Marchesin, un dirigente d'azienda trevigiano che vive in Norvegia da più di 4 anni e vive a poche decine di metri dai luoghi dove si è tenuto l'attentato, quindi di fatto lo ha seguito in diretta. Ciao Massimo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno, grazie. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Credo che siano state, insomma, ore difficili anche per te, per la tua famiglia. Personalmente sono state delle ore un po' concitate, nel senso, ieri appena ho saputo che si trattava di qualcosa assimilabile a un attentato terroristico, ho preso compagna e bambina e sono cercato di uscire, diciamo, dal centro di Oslo. Poi è partito tutto questo, diciamo, percorso di emozionale, che insomma, questa maratona mediatica che immagino il 90% dei norvegesi siano stati appunto incollati allo schermo a vedere, cercare di capire cosa succedesse in questo paese che fondamentalmente, diciamo, viene colpito in maniera così forte per la prima volta, nel senso che, come dicevo ieri dai vostri colleghi, è un paese che non ha mai avuto esperienze del genere, non ha mai avuto dei movimenti terroristici interni, non è mai stato oggetto di terrorismo internazionale, anche, diciamo, addirittura nella Seconda Guerra Mondiale non è stato sono stati vissuti momenti così tragici, perché hanno resistito, se non so, mi pare qualche ora all'attacco tedesco, poi sono invasi, stati invasi. Quindi è veramente un popolo che è stato colpito così forte, così improvviso, inaspettatamente. Tu dicevi la gente è incredula, è stato quello il primo sentimento che ha pervaso, sì, insomma, la popolazione. Esattamente, io penso che vedendo, parlando con le persone qua intorno a noi e vedendo anche le facce delle interviste, siamo ancora nella fase di shock, quindi ancora di non metabolizzazione delle impressioni, delle emozioni che sta vivendo. Si stanno, ovviamente poi ognuno ha una personalità diversa e reagisce in modo diverso, visto i commenti su Facebook di persone addirittura che vorrebbero questa persona, come si è fatto con i traditori di guerra, Seconda Guerra Mondiale, messo in alcuni posti, alcune che sta in maniera reagisce un po' più soft. Siamo tutti diversi, però sicuramente adesso si inizieranno a metabolizzare queste emozioni e si inizierà un discorso certo. Che coinvolgerà un po' tutta la società. Ma tu ieri eri in strada e avevi capito subito che si trattava di un attentato? No, non avevo capito, ero proprio in strada, io vivo in linea d'aria a 150 metri, stavo tornando a casa, stavo attraversando una strada per, appunto per recarmi a casa, e ho sentito un grosso boato e nella prima frazione di secondo ho pensato a un terremoto, non so perché, ma ho visto tutti i palazzi tremare, un vetro di un negozio davanti a me è crepato, ho pensato subito al terremoto, ho cercato di allontanarmi dagli edifici più alti e poi dopo 2 o 3 secondi ho realizzato che non poteva essere questo perché è durato troppo poco. Ho guardato in direzione della provenienza del suono, ho visto una gru e ho pensato sarà cascato un cubo gigantesco di cemento dalla gru perché veniva appunto del fumo bianco, cioè, insomma un fumo trasparente veniva dal tetto di un edificio, siccome là nella zona governativa ci sono diversi cantieri aperti. Poi ho iniziato a vedere del fumo più scuro, ho pensato al fuoco e allora ho iniziato a cercare di avvicinarmi, capire, vedevo la gente appunto che iniziava a scappare dal luogo di origine, spaventata, allora ho iniziato a pensare a qualcosa di più grave. Certo. E ovviamente, come avete riportato voi, adesso non scendo nei dettagli di cronaca perché vedo che tra Norvegia e l'Italia c'è un fuso orario di 3 minuti, nel senso le notizie, quelle che sono qua dopo 2 o 3 minuti appaiono anche sulle vostre pagine, sui vostri media, ma si pensava prima all'assalto, certo, al terrorismo internazionale di matrice islamica e poi ovviamente come vedete voi insomma si è definito un caso di probabilmente, speriamo, una persona isolata. Certo, ma Massimo, e questa mattina come si è svegliata la città? Tu immagino avrai acceso la radio, la televisione, i social network. Sì, sì. Come vi dicevo siamo ancora nella fase di non metabolizzazione, sia diciamo l'impressione che ho, innanzitutto guardo fuori dalla finestra e vedo un enorme deserto ovviamente, chi rimane a casa davanti alla televisione, chi magari preferisce cercare la tranquillità di parenti e amici che hanno delle abitazioni un po' fuori, comunque è una Norvegia turbata ovviamente, scioccata, conoscendo un po' il popolo norvegese che è un po' come una grande famiglia, uno spirito nazionalistico nel senso puro del termine, non nelle coloriture che ha preso un po' giù in Sud Europa, una grande famiglia che si sente un po' colpita e si sta iniziando a interrogare dove ha sbagliato, dove uno dei suoi nipoti o dei suoi figli ha sbagliato e se c'è una colpa da ritrovare appunto nel sistema stesso, quindi certo, saranno a mio avviso un confronto molto pacato, tipico di queste persone, un confronto molto pacato, televisivo, mediatico, ma nei toni giusti, sicuramente 2 fronti, uno dal punto di vista pedagogico, educazionale, se questo è giusto il termine, uno sul discorso sicurezza, quindi un po' più tecnico, sicurezza. Ricordiamo brevemente, questo è un paese dove il primo ministro e i ministri non hanno guardia del corpo. Io personalmente andavo nella palestra del primo ministro, mi è capitato una volta di incrociarlo, più di una volta mi sono seduto in tram in metropolitana con qualche ministro. È un paese che vive, è un paese piccolo, 5 milioni di abitanti, lo possiamo paragonare al Veneto dove vengo, no? Quindi però diciamo non proprio perché è un paese molto coeso, un paese anche che ha un forte controllo sociale, no? Quindi del controllo della società civile su se stessa. Non ha esperito cose del genere, quindi diciamo. Quindi insomma diventerà un momento comunque di riflessione per guardarsi, per capire e per ripartire anche, perché sicuramente tragedia nazionale, dice il Premier, ma da questa tragedia credo che insomma la Norvegia possa ripartire col passo giusto. Grazie davvero Massimo per la tua testimonianza. Grazie a voi. So che era anche il tuo primo giorno di ferie forse oggi, vero? Leggevo in un articolo. Sì, quindi... sì. Boh, adesso... sì, beh, ma insomma io sono a disposizione. Insomma, perfetto. Se avete bisogno di altre notizie, ma vedo che meno male sì, siete abbastanza al ci passo. Siamo. Grazie davvero sì. Massimo, a te e a tutta la tua famiglia. Ciao, buon sabato. Ciao. Della tragedia norvegese invece torniamo in Italia perché ci piaceva come contraltare portare anche un messaggio di pace, di integrazione, e lo facciamo andando a Montesole. Sapete la strage di Marzabotto, una delle pagine più nere e più cruente della Seconda Guerra Mondiale? Beh, lì a Montesole, montesole.org, il sito per tutte le informazioni, si sta tenendo in questi giorni, dura una decina di giorni, una scuola di pace dove sono coinvolti ragazzi provenienti da Israele, dalla Palestina, dall'Italia e dalla Germania. Quindi ci piaceva appunto dare voce a questa bella esperienza. Con noi una delle educatrici, diamo il benvenuto a Elena Bergonzini. Ciao Elena. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Allora Elena, cosa sta succedendo in questi giorni lì a Montesole? Dunque, a Montesole c'è questa struttura che ormai ha circa una decina d'anni, che si chiama appunto Scuola di Pace, e che in estate ospita spesso ragazzi che provengono da diverse situazioni, anche da situazioni in cui il conflitto è molto presente, come appunto Israele-Palestina. È un campo sostanzialmente dove vengono fatte diverse attività. L'area è un'area che è stata sostanzialmente abbandonata, nel senso che non c'è nessuno, ci sono pochissimi abitanti intorno, quindi siamo in un contesto molto isolato, dove è molto possibile concentrarsi, dove le esperienze sono anche forse più intense, proprio per questo motivo, perché non ci sono grosse distrazioni intorno. Quindi c'è la possibilità di ragionare, vivere, testimoniare percorsi, in questo caso percorsi di pace. Vuol dire che la pace comunque si può insegnare, questa è un po' la vostra missione? Diciamo che ci si può provare, senz'altro. Ecco, sa, noi parliamo di Europa, lì si parla di Israele, si parla di Palestina, si parla di Germania, quindi usciamo anche un po' dai confini. Però appunto il focus, il punto su cosa lo andate a porre? Ma dunque, il tema principale del campo è il conflitto. Il conflitto, non solo il conflitto israelo-palestinese ovviamente, ma anche i conflitti che sono presenti in Europa, proprio perché l'idea è che anche gli europei forse qualcosa hanno da imparare da chi in Israele e Palestina è così abituato a lavorare sui temi della convivenza in un conflitto. Quindi in particolare in Europa ci occuperemo dei conflitti tra nativi e migranti, sì. Quindi il tema del razzismo, delle integrazioni, dilemmi culturali, insomma, che nascono appunto in conseguenza dell'immigrazione. E senza dimenticare comunque che sì, è vero che usciamo un po' dai confini europei, ma è anche vero che l'Europa non è, come dire, un'isola, esatto, quindi sì, sono persone che sono dall'altra parte del Mediterraneo e che comunque hanno delle grosse grossi collegamenti, grossi legami anche con la storia europea. Sì, per fortuna la cultura va oltre i confini. C'è anche Gabriele, che è uno dei ragazzi che sta partecipando al campo. Ciao Gabriele. Ciao Federico. Ciao, piacere. Quanti anni hai? 19. Ecco Gabriele, cosa spinge un 19enne a fare una scelta del genere, quindi a dedicare parte delle proprie vacanze a un'esperienza di questo tipo? Allora, penso, io in generale sono già stato qua 2 anni fa e ho trovato l'esperienza magnifica, perché non so, io sono spinto da questo perché amo veramente molto, come dire, anche conoscere le altre culture, ed è qualcosa che proprio mi piace moltissimo. Ma poi anche solo l'idea di parlare per 10 giorni solo in inglese, in una lingua comune, in una lingua che non è la tua, però esprimendo, e poi appunto anche per la tipologia di dialoghi che si hanno, perché facciamo delle discussioni che io trovo molto molto costruttive. L'ultima volta mi hanno dato moltissimo e anche stavolta penso che mi stiano dando tanto. E hai studiato, tra virgolette, prima di... Inglese? No, al di là dell'inglese hai studiato la situazione politica, per esempio, in Israele? Nel senso, magari ho guardato giusto un paio di date per poter capire, non so, ad esempio, nel caso in cui loro parlassero di un preciso come fondamentale, però non mi sono... ho anche deciso di non informarmi per cercare di anche rappresentare la situazione com'è veramente, cioè che con abbastanza poca informazione, come dire, non saprei. Certo. Gabriele, ti faccio una domanda fuori tema, perdonami, però sai, è il programma che me lo impone. Se io dico Europa, tu cosa pensi? Cioè, qual è la prima sensazione che ti viene in mente? La senti una cosa tua? L'Europa? Sì. La sento in questi campi, come dire. La sento un pochino sì. No, cioè, non lo so, sarà anche parlare tutti nella stessa lingua, però io penso di sentirla, magari molto più che non appunto nella vita quotidiana, perché senti proprio che, cavolo, è possibile dialogare insieme agli altri, anche sentirsi uniti e non lo so, anche pur avendo tante cose diverse, cioè, c'è una certa appartenenza. In effetti non hai nulla della serie noi e le persone dalla Germania siamo più unite rispetto alle persone, non so, abbiamo un rapporto diverso. Sì. Rispetto a quello palestinese e israeliani, non in questo modo, però io penso che di sentire l'Europa intesa come qualcosa che va oltre il mio stato, qualcosa che unisce persone non solo dell'Italia, qualcosa di sovranazionale, non penso che sia okay. Grazie davvero Gabriele, buon campo sai a te e a tutti i ragazzi che con te stanno partecipando a questa esperienza. Elena, prima di salutarci, ci hai detto nel preparare un po' questa intervista che soprattutto per i ragazzi tedeschi una delle giornate più intense solitamente è quella in cui si accompagna sui luoghi della strage di Marzabotto. Sì, ed è successo proprio ieri. Ieri abbiamo fatto appunto la visita ai luoghi della strage qui a Montesole. Quella che viene normalmente chiamata la strage, certo, di Marzabotto è appunto in realtà la strage di Montesole, e qui appunto nell'autunno del 44 sono stati uccisi circa 780 civili da truppe naziste, e ovviamente per loro è molto doloroso, è anche parte come dire della loro memoria pubblica, perché la Germania è una pubblica fatta appunto di sensi di colpa e così via, ma è anche parte a volte delle loro memorie personali, perché i ragazzi che sanno di aver avuto dei nonni nell'esercito, nell'SS, ovviamente fanno la connessione molto facilmente, certo. Per cui anche ieri dopo abbiamo riflettuto anche su cosa significa la memoria, e si vedeva proprio il contrasto molto netto con loro che dicevano, ad esempio, una ragazza palestinese che indossava una maglietta con scritto "Io I love Palestine", io amo la Palestina, e una ragazza tedesca che diceva "Io non potrei, non me la sentirei mai di indossare una cosa del genere, perché ho paura di quello che gli altri potrebbero pensare di me se io andassi in giro con I love Germany". Certo. Ok, insomma, è significativo. Grazie davvero Elena. Ricordiamo montesole.org, il sito ufficiale per tutta l'informazione sulle attività che durano tutto l'anno. L'abbiamo già pubblicata anche nelle nostre pagine in Facebook. Ciao Elena, buon campo. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Europost-it. Un anno di concorsi volontari. Il 2011 è l'anno europeo del volontariato e per celebrare l'utile attività dei volontari ci sono anche tanti concorsi proprio per tutti i gusti. Qualche esempio? Focus on Volunteering è un concorso fotografico indetto dal coordinamento dei centri Europe Direct della Toscana, con l'obiettivo di mettere in risalto l'importanza del volontariato in Europa. Trovate il bando su edfirenze.eu. Osservando il volontariato europeo è invece un concorso per due premi di laurea, sia specialistica che triennale, per tesi sui temi del volontariato. Le tesi possono essere di qualsiasi tipo di materia, ma devono essere incentrate su questo tema. Si possono vincere fino a 2.000 euro. Trovate tutto sulla pagina dell'Osservatorio sul volontariato dell'Università Cattolica di Brescia, che insieme ad altre associazioni ha promosso l'iniziativa centridiricerca.unicat.it. Trovate tutto sulla pagina dell'Osservatorio sul volontariato dell'Università Cattolica di Brescia, che insieme ad altre associazioni ha promosso l'iniziativa. centridiricerca.unicat.it. Affrettatevi! Entrambi i concorsi scadono l'1 agosto. E si può parlare di Europa anche partendo dai graffiti. Non è una provocazione, anzi è un progetto pilota che è stato presentato pochi giorni fa e dove il capofila è proprio l'Italia. Si chiama European Graffiti, questo progetto. Per parlarne, per capire cos'è, abbiamo invitato il presidente dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Diamo il benvenuto a Paolo Di Caro. Ciao Paolo. Buongiorno, ciao. Sei un graffittaro tu? No, però, ecco, così ho l'occasione di dirlo. Però siccome bisogna anche dare il buon esempio, oltre che parlarne di graffiti, quando abbiamo ristrutturato 2 anni fa la sede dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, abbiamo chiesto ai graffitari di realizzare 7-8 opere d'arte a tema all'interno della nostra sede. Quindi oggi la sede dell'Agenzia Nazionale per i Giovani è corredata dalle opere dei graffitari. Vedi, e poi sono opere d'arte, no? L'importante è seguire le regole, ma adesso capiremo anche le fondamenta del vostro progetto. Paolo, proprio in 2 parole ci ricordi anche che cos'è l'Agenzia Nazionale per i Giovani? Sì, l'Agenzia Nazionale per i Giovani è l'organismo che attua per l'Italia il programma Gioventù in Azione, che è un programma di mobilità giovanile, di iniziative, certo, giovani sul territorio, di scambi giovanili, che è molto simile ad Erasmus, che tutti conoscono, che però non è rivolto agli universitari, ma a tutti i giovani fra i 13 e i 30 anni. Paolo, stavo linkando il vostro sito, le nostre pagine di Facebook, ci sono veramente 1000 dritte per i giovani, dallo sport ai concorsi, e assolutamente da diffondere, perché credo che sia un ottimo punto di riferimento perché ha voglia di fare cose. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro noi abbiamo ovviamente il finanziamento che ci proviene dalla Commissione Europea. Quest'anno abbiamo avuto un cofinanziamento da parte del Governo Nazionale, del Ministero della Gioventù, e devo dire che in un periodo di vacche magre questo è un segnale comunque significativo. Quindi noi avremo più soldi da spendere su questo programma, e tieni conto che noi finanziamo 1/3 dei progetti presentati e finiamo tutti i soldi a disposizione. Quindi questo significa che c'è grande attenzione da parte dei ragazzi. Avremo ovviamente bisogno di più risorse, ma noi lavoriamo soprattutto con la qualità, con la voglia, con la creatività dei ragazzi, e quindi ci fa piacere non solo spenderli, ma anche avere tanta attenzione da parte dei ragazzi e delle associazioni. Certo, e vuol dire anche andare incontro a quelle che sono le istanze, le richieste dei ragazzi, come per esempio quella di avere la possibilità di fare graffiti, e lì nasce questo progetto. Avete fatto un paio di giorni, una giornata di studio proprio per presentare questo European Graffiti. Qual è l'idea di fondo? Ma l'idea di fondo intanto è che c'è la possibilità di parlare di graffiti, di creatività giovanile, di street art in maniera legale, e non soltanto così come viene vista e spesso dipinta dagli organi di informazione in generale, ma purtroppo così come viene anche trasmessa da chi fa dei writer, degli eroi dell'illegale, insomma, nelle nostre città. E allora INWORD, che è l'osservatorio internazionale sui writers, e questa associazione del napoletano che si chiama Callisto Arts, hanno deciso proprio, in collaborazione con il Ministero e con l'Agenzia Nazionale per i Giovani e quindi con il programma Gioventù in Azione, di parlare di writing legale, cioè di writing con la collaborazione delle istituzioni che mettono a disposizione degli spazi importanti delle città, spesso abbandonati e degradati, all'interno dei quali far esprimere i ragazzi e i giovani. Molti di questi sono dei veri artisti, poi ormai l'arte contemporanea ci ha insegnato ad apprezzare le opere anche degli street artists, però purtroppo non c'è stata in Europa una grandissima attenzione da parte delle istituzioni. Questo, anche a detta di INWORD, è probabilmente il primo caso a livello europeo nel quale ufficialmente c'è una forma di collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il mondo dell'associazionismo legato all'arte di strada, e credo che questo sia significativo. 2 parole sul progetto, perché European, sì, Graffiti mette insieme writers provenienti da alcuni paesi, quindi oltre all'Italia c'è il Portogallo, la Turchia, la Germania, la Francia, il Regno Unito. I ragazzi, dopo 2 giorni di workshop sul tema dei graffiti, hanno stipulato insieme a noi, proprio al Ministero della Gioventù, presso la sede del Ministero della Gioventù, alla presenza mia e anche di un pubblico interessato, hanno siglato questo protocollo d'intesa europeo per favorire il writing legale in tutta Europa, e la loro presenza è stata significativa in un luogo simbolo del napoletano che è San Giovanni a Teduccio, che poi viene definito il Bronx, e loro hanno realizzato sui muri di questo Bronx, hanno realizzato dei graffiti, hanno sostanzialmente dato un segnale sul territorio importante per dire che ciò che viene abbandonato spesso dalle istituzioni e va a finire nelle mani della criminalità organizzata può tornare nelle mani dei cittadini, dei ragazzi, dei giovani che si esprimono anche attraverso i graffiti. E torna tutto più colorato, e non solo nei fatti, ma anche proprio come metafora. Agenziagiovani.it è il sito di riferimento. Grazie davvero Paolo, in bocca al lupo per il vostro lavoro. Grazie a voi e crepi il lupo. Ciao. Ciao. Europost-it. Una foto vi porta a Praga. Fotografi appassionati di fotografia, attenzione! L'OCSE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ha organizzato un concorso per voi. Presentate una, due o tre foto che illustrino l'importanza dello sviluppo dell'energia e dei trasporti sostenibili in qualsiasi suo aspetto. E potete vincere un viaggio a Praga e anche una nuova attrezzatura fotografica. Prendete subito la vostra macchina e andate a scattare. La scadenza per la presentazione delle foto è il 31 luglio. Per leggere l'intero regolamento andate sul sito in lingua inglese osce.org. E con questa allegra canzoncina entriamo negli asili tedeschi, in particolare negli asili di Berlino. Perché? Perché i bambini di Berlino a partire dai 5 anni dovranno leggere 25 storie dove si insegna che è possibile avere un orientamento sessuale diverso dall'eterosessualità. Ci sono principi che si sposano con principi, regine che si fidanzano con regine, e tutto questo sta in una valigetta, in una sorta di kit per l'autodeterminazione e accettazione delle varietà sessuali. Sono corsi che insomma da un paio d'anni in via sperimentale sono cominciati negli asili di Berlino. C'è una forte volontà appunto di spiegare ai bambini che esiste altro oltre all'eterosessualità, e lo si fa utilizzando quello che è il linguaggio dei più piccoli, cioè la fiaba. E per capire il perché di questa attività e come è stata presa anche magari non tanto dagli studenti quanto dai genitori, abbiamo invitato Ambros Weibel, che è un giornalista del quotidiano. Ambros, aiutami, come si pronuncia il tuo quotidiano? Buongiorno, si chiama Taz, Die Tageszeitung, che sarebbe in italiano il giornale. Ah, ok. Ma un giornale che ha niente a che fare con il vostro, il giornale. No, no, ok. Questa è una presa di distanza, però vuol dire il giornale, quindi ecco. Ok, insomma, che è il nome di un giornale, il giornale. Tu di cosa ti occupi, Ambros? Io mi occupo di opinione e dibattito, ma anche spesso vado in Italia a fare dei servizi, diciamo, sulla mafia. Sono stato in Sardegna qualche giorno fa. Ok, quindi insomma segui la cronaca, però anche il costume. Ci ha molto colpito piacevolmente appunto l'iniziativa di queste scuole berlinesi. Come è stata presa, come è stata divulgata? C'è stato un movimento di opinione legato a questa scelta, sì, a questa decisione? Ma prima di tutto si deve capire che in settembre si vota a Berlino, no? Ci sono le elezioni per il Parlamento della città. Ovviamente questa iniziativa del Senato di Berlino andava giù molto bene a certa stampa scandalistica che voleva approfittare, no? Per le elezioni. Poi del resto, diciamo, a Berlino non è stato uno scandalo, perché iniziative del genere sono già attive in altre regioni della Germania. Così non ha fatto tanto scandalo questa cosa. Ok. Ma quindi non solo a Berlino può esserci un'iniziativa del genere, comunque è una città molto giovane, molto progressista, cioè può essere, si può allargare secondo te anche le altre città tedesche? Sì, beh, diciamo, iniziative simili sono già valide nel Land della Westfalia. Cose simili si fanno ad Amburgo, nelle altre città, diciamo, grandi della Germania. Ovviamente in Baviera, da dove vengo io, che è una regione, diciamo, cattolica, più conservatrice, qui le cose sono un po' diverse. Tu hai avuto modo o occasione di leggerle queste fiabe? Sì, ho letto una fiaba. Un'altra cosa, se mi permetti di dire. Certo. Diciamo, questa valigetta con i libri, sono 25 libri. E non tutti questi libri sono per bimbi che hanno 5 anni, no? Perché la scuola elementare a Berlino ha 6 anni. Così si deve un po' distinguere quale libro viene letto da quale bimbo. Comunque, credo che questi libri siano cercano di rispondere a una realtà, questa città. Diciamo, cercano di dare risposte ai bambini a cose che si vedono per le strade, no? Mm-hmm. Si vedono coppie gay, coppie lesbiche, si vedono berlinesi che vengono da tutti i paesi del mondo e i libri cercano di dare una risposta a quella molteplicità di Berlino. Certo, comunque la fiaba è una metafora della realtà e si cerca di spiegarla questa realtà, ecco, usando quello che è un linguaggio che i bambini capiscono, insomma. Insomma, quindi sicuramente una bella iniziativa di cui si è parlato e forse non abbastanza. Ambros, cambio completamente argomento, perché proprio ieri ho trovato una notizia che mi ha incuriosito, forse neppure la sai, perché tempo fa abbiamo parlato con un tuo collega che ci raccontava del fenomeno di Bud Spencer, che era in cima alle classifiche con la sua biografia in Germania. Hai presente Bud Spencer, l'attore? Sì, sì, sì. È famoso in Germania. Hai letto anche tu la sua biografia? No, ok, perfetto. No, però sai, no, che era in cima alle classifiche. E leggevo che c'è un paese che vuole dedicare un tunnel a Bud Spencer. Lo sapevi? Sì, sì, c'è una iniziativa, diciamo, di una cittadina nella Svevia, non nella Germania del sud. Sì. E loro cercano di convincere il sindaco via Facebook. Sono già 40.000 utenti Facebook che dicono che vogliono questo tunnel Bud Spencer. Fantastico. Sì, sono lui è, come si chiama, Terence Hill, sono famosissimi in Germania. No? Però insomma, adesso, e quindi tu dici, avere un tunnel dedicato comunque è un segno di riconoscimento. Sì. Ovviamente, diciamo, il tunnel per Bud, il tunnel deve essere abbastanza grande, no? Perché lui è... Hai ragione. Ambros, grazie davvero per aver condiviso con noi un po' del tuo tempo e bocca al lupo per il tuo lavoro. Tornerai in Italia presto? Vado in Italia, diciamo, per le ferie. Ok, ma in Sardegna invece cosa eri venuto a fare, ce lo puoi dire? Sì, volentieri. In Sardegna ho fatto una reportage sul poligono Salto di Quirra. Sì? Che proprio oggi, diciamo, il nostro giornale è la prima pagina. Ah. Che non so se voi sapete che a Salto di Quirra c'è un magistrato, un procuratore, Domenico Fiordalisi, che fa un'indagine perché nell'ambito del poligono, diciamo, la gente muore di leucemia. Sì, certo. Ci sono nati delle pecore con due teste, certo, certo. Malformati. Noi siamo andati lì perché anche l'esercito tedesco ha fatto delle esercitazioni lì. L'aeronautica tedesca anche ha una base in Sardegna, diciamo, diventa una storia, mi pare, abbastanza grande. Assolutamente sì. Grazie davvero, Ambros, ciao, buon lavoro. Ci ritroveremo. Grazie sicuramente voi, qui all'Altra Europa. Ciao. Europost-it. Nonne alla pari. Avete mai ospitato una ragazza alla pari e avete pensato troppo giovane per affidarle la casa e i bambini? Provate con una nonna. È l'idea che ha avuto una signora cinquantenne di Amburgo, che ha pensato di organizzare un servizio di scambi alla pari per donne dai 50 anni in su. Per le signore, un'opportunità per visitare paesi in cui non sono mai state spendendo poco, fare un'esperienza all'estero e imparare una lingua. E un vantaggio anche per le famiglie, che si possono affidare con più tranquillità a signore mature con esperienza alle spalle. Le nonne con più esperienza, poi, si offrono anche per progetti con associazioni umanitarie e bimbi con disabilità. Trovate tutto sul sito di Granny Au Pair. Granny-au-pair.com. Come spesso accade, andiamo a seguire storie di italiani all'estero, non tanto talenti in fuga, cervelli in fuga, per quello c'è il nostro Sergio Nava che ogni sabato ve ne fa conoscere di nuovi e vi racconta le loro storie. A noi ci piace così andare a scoprire chi a estero, chi ha voglia di fare qualcosa di particolare e ce la fa e le loro storie diventano degne di nota. E in questi giorni si parla molto di sport, i mondiali di nuoto, ma non solo, l'automobilismo, il motociclismo, il Tour de France, grandi eventi, ma in questi giorni si è parlato anche fortemente della candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2020, se non erro con i numeri perché sono sempre abbastanza stonato con le cifre. Beh, c'è un italiano che ormai è esperto di Olimpiadi perché prima come volontario, poi adesso come dipendente ci lavora, in questo momento sta lavorando in preparazione delle Olimpiadi a Londra del 2012, è un bolognese, si chiama Andrea Ciccio Messere ed è assistant manager dei giochi, cioè è più o meno responsabile di tutti quelli che sono e soprattutto saranno gli spostamenti di atleti, tecnici, familiari, quindi tante tante persone. Ciao Andrea, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Fede, buongiorno a tutti. Ciao. Ormai stai mettendo le tacche tu sulle Olimpiadi che ti vedono protagonista, vero? Esatto, esatto, infatti. Il tuo Torino? Londra e poi vedremo, speriamo, Rio e magari Roma nel 2020, come dicevi tu. Ma come si parte dalla provincia di Bologna e si arriva a Londra a gestire una cosa che non ha nulla di italiano, cioè la puntualità dei trasporti? Beh, guarda, è tutto iniziato per caso, perché io ho iniziato, come dicevi, appunto volontario a Torino per caso, stavo facendo l'università, mi hanno chiamato a tipo 2 settimane prima dell'inizio delle Olimpiadi, mi hanno detto ti va di venire? Ho detto va bene, andiamo, proviamo, e lì ho scoperto una passione enorme per le Olimpiadi e per le Paralimpiadi, non dimentichiamoci che dopo le Olimpiadi ci sono le Paralimpiadi, certo, che sono veramente molto importanti e a volte molto più belle delle Olimpiadi stesse. E forse per esempio nel tuo caso che si parla di trasporti è ancora più complicate, perché insomma ci sono altre problematiche da gestire. Assolutamente sì, la puntualità, come dicevi, è fondamentale, perché altrimenti salta tutto e non funziona più niente. Gli atleti devono essere ovviamente puntuali per le loro gare e chi li va a vedere o i giudici di gara devono arrivare anche loro in tempo, quindi è veramente difficile, in tutte le città è difficile, a Londra è particolarmente difficile, diciamo. Ok, ci dici quindi la tua esperienza torinese, dopodiché come appunto il salto verso Londra? Ho fatto 2 settimane di volontario in Spagna e gli europei di basket, ovviamente tutto pagato da me, volontario, poi ho lavorato 2 anni alla Virtus Pallacanestro Bologna e poi manager arrivi e partenze a Roma per i mondiali di nuoto la scorsa edizione, poi 1 anno di pausa e mi hanno chiamato a Londra, ho mandato un curriculum, in realtà ne ho mandati 15 penso, ho mandato, fatto una marea di application, li ho stalkerati e per disperazione secondo me mi hanno chiamato e alla fine mi hanno preso. Ok, è una cosa molto inglese o respiri aria internazionale, aria europea lì sul tuo luogo di lavoro? Respiro aria mondiale, a dire la verità, perché la mia responsabile è australiana, ci sono inglesi ovviamente, ci sono francesi, tedeschi, altri italiani, siamo circa 20, una norvegese, persone da tutto il mondo, quindi non è solo europea, la dimensione è ben più grande. Ecco, manca 1 anno, quindi tantissimo tempo per noi umani, per voi invece che siete lì a lavorare credo che sia domani, no? L'inizio di fatto. Sì, esatto, fra poche ore. Diciamo. Fra poche ore l'apertura della cerimonia. E, adesso senza entrare nello specifico, perché forse non puoi neanche svelare i dettagli, però il tuo compito oggi cos'è? Cioè fai delle simulazioni di fatto o sei già lì che acquisti biglietti per gli atleti? No, io semplicemente tra molte virgolette, devo pensare a quanta gente ci sarà, vedere quanti autobus, mi occupo di autobus principalmente, devo procurare per tutti gli atleti, a che ora devono arrivare, a che ora devono partire, dove devono arrivare, dove devono partire, insomma sono tante cose, tante piccole cose, poi bisogna guardare, come dicevi, fai i test, ti metti sull'autobus e proprio vai per le strade di Londra e vedi quanto tempo ci vuole fare questo, e in più adesso siamo occupati con i test event, perché ovviamente bisogna prepararsi, bisogna controllare tutto quello che, che dovrà funzionare, e se qualcosa non funziona è meglio che lo scopriamo ora più che l'anno prossimo, diciamo. Ecco Andrea, quindi usciamo dalle Olimpiadi e andiamo a Londra. Tu stai guardando Londra da un punto di vista particolare, che è un po' quello del cronometro in mano per vedere i tempi che servono per gli spostamenti, però immagino che la tua attenzione vada anche sui particolari, sui dettagli, sulle sfumature. Che Londra stai scoprendo? Sto scoprendo una città che non pensavo. Londra l'ho sempre vista come una città grigia. Piove, assolutamente, però è una città fantastica, aperta, piena di storia, di cultura, di tutto, veramente. È una città, non saprei nemmeno come definirla, è fantastica, una città veramente, veramente bella e da vivere, assolutamente. Ecco, ma hai modo di viverla o cioè, così romanziamo un po' anche appunto un italiano all'estero che si trova a lavorare per le Olimpiadi, hai orari massacranti 7 giorni su 7 o sono ancora tempi rilassati quelli che accompagnano la tua quotidianità? No, ancora siamo tranquilli, diciamo. I tempi gli orari massacranti arriveranno verso l'anno prossimo, un po' meno, dove lavoreremo 7 giorni su 7, tipo 20 ore al giorno. Ma adesso siamo un po' più tranquilli, sabato e domenica a casa, quindi a parte qualche rara eccezione, però si riesce a vivere la città, insomma, si riesce a girare, si riesce a vedere tranquillamente. Mm-hmm. Ecco, abbiamo aperto con un luogo comune, chiudiamo con lo stesso luogo comune, appunto sei italiano, l'italiano per definizione comunque è ritardatario, è disorganizzato, ci sono commenti tra i tuoi colleghi o questa cosa sei riuscita a nasconderla? Guarda, se ti posso dire la verità, tutti vedono gli italiani come dei bravi organizzatori e sinceramente ti dico che siamo veramente tra i migliori al mondo a fare certi lavori, organizzare, e siamo molto più organizzati di altre culture. Ok, quindi insomma ti stai facendo valere. Okay. mi sono ricreduto, diciamo, anche io pensavo che noi italiani fossimo così, invece no. Grazie davvero Andrea, insomma ti aspetta un anno importante, ci piace sapere che insomma là ci sono anche degli italiani che stanno portando il loro talento, il loro contributo per l'organizzazione delle Olimpiadi, che sono sempre anche un momento di festa, oltre che di sport, oltre che di business, oltre che di tutto il resto. Assolutamente sì. Buon lavoro, grazie davvero, ciao Andrea. Grazie, ciao Fede. Ciao. E con questa storia chiudiamo la puntata di oggi dell'Altra Europa, un grazie a Margherita Aina e Alessandro Balia che con me hanno scritto la puntata, e Paolo Corleoni alla parte tecnica, radio24.it per riascoltare il podcast da lunedì, oppure le nostre pagine in Facebook dove trovate tutti i link relativi agli argomenti toccati. Io sarò di nuovo in onda domani pomeriggio, domenica dalle 17 con Mine Vaganti. Ancora ciao da Federico Taddia.